si scardinano. Forse un cuore esploso fra i forse e le mani intrecciate. Le ore si scardinano. Forse un cuore esploso tra i forse e le mani intrecciate.